Spero che abbiate apprezzato tutti l'eleganza e la funzionalità dell'azione, diciamo così, informativo-intimidatoria messa a segno giovedì scorso dalla sedicente organizzazione Falange Armata nei confronti di un'agenzia di stampa, mi sembra fosse la DN Kronos, sì. I soliti guastamestieri hanno scritto che tecnicamente non era niente di speciale, che qualsiasi ragazzino un po' sveglio, purché provvisto di un computer e di un modem, avrebbe potuto fare altrettanto. Anzi, forse era stato un ragazzino davvero. Ma sono solo sottigliezze. Da che mondo è mondo, le organizzazioni terroristiche non si giudicano in base alle loro capacità tecnologiche. Non sono necessarie competenze particolari per diffondere un messaggio intimidatorio o per collegare un timer a una carica esplosiva. Di capacità particolari, semmai, ci sarebbe bisogno per non farsi prendere. Ma anche questo è un problema che i terroristi nel nostro paese non si pongono mai, visto che in genere hanno già impreso gli opportuni accordi con le organizzazioni delegate alla loro individuazione e cattura. Far arrivare un preavviso d'attentato via modem a una rete informatica, credetemi, non è roba da poco. Come minimo segna un preciso salto di qualità. E guardate, conta poco il fatto che l'attentato previsto a quanto sembra poi non ha avuto luogo. Il messaggio stesso, che infettava il monitor della rete informatica dell'organizzazione Bersaglio, rimuovendo nei testi registrati e impedendovi comunque l'accesso, era già in sé l'attentato, secondo un perfetto schema autoreferenziale. Ma non è uno di quegli attentati che mettono la vittima nell'impossibilità di funzionare secondo le proprie regole, di svolgere la propria funzione, che sarebbe stata un'azione, una pura creazione di disordine, priva di vera e propria utilità dal punto di vista dei suoi autori. Gli attentati si fanno sempre a scopo di autopromozione, sono una tipica azione comunicativa. La DN Kronos è una struttura di comunicazione, perché ha la funzione di produrre e diffondere notizie, e nessuno può certamente affermare che giovedì scorso a tale funzione non abbia ottemperato, non se ne è parlato altro per tutto il giorno. Solo che invece della solita miscellanea banale ha prodotto e diffuso per tutto il giorno solo una notizia, quella del preannuncio attentato della sedicente Falange Armata. Che quindi, chiunque si cevi dietro quella truce denominazione, ha sicuramente raggiunto il suo obiettivo, che è quello di far parlare di sé. E lo ha raggiunto con un minimo di rischi, senza infliggere danni a persone che possono sempre provocare delle spiacevoli ricadute d'immagine, insomma, facendo quello che si dice un bel lavoretto pulito. Se poi a qualcuno sembrasse che in questa interazione si celi qualche paradosso, perché è un'azione avversiva che non avverte assolutamente niente, ma anzi garantisce e potenzia il funzionamento del sistema contro cui apparentemente si rivolge, costui potrebbe riflettere sulla sostanziale omogeneità tra l'atto in questione e il sistema in cui si inserisce. Un attentato autoreferenziale è quanto di più adatto si possa immaginare a un apparato informativo che dalla autoreferenzialità è sempre più affascinato. I media ormai tendono a parlare esclusivamente di sé, i giornalisti intervistano quasi soltanto i loro colleghi e riferiscono quasi esclusivamente delle loro imprese e disavventure. I notiziari televisivi dedicano tre quarti del loro tempo ad anticipare i titoli dei giornali, che il giorno dopo parleranno quasi soltanto di quanto si è detto in televisione la sera prima. La procedura, in ultima analisi, è futile. Ma non importa, perché il re è sicuramente nudo, ma nessun ragazzino oggi sarebbe disposto ad ammetterlo, perché metterebbe a repentaglio qualsiasi possibilità di essere invitato allo show di Maurizio Costanzo. La nostra cultura è caratterizzata, anzi è maledetta, da una tecnologia che permette di far circolare con minima spesa quantità di informazione sempre maggiore, senza chiedersi se è informazione ridondante o essenziale. Che la procedura finisca con l'avvitarsi su se stesso non è tanto un rischio quanto una necessità. E in questo meccanismo infernale c'è posto proprio per tutti, c'è posto per chiunque sia disposto ad accertarne le regole, Falange Armate comprese. Io credo proprio che di questa organizzazione sentiremo parlare ancora. They living in time to make a crime, so crime don't have a face.